Per questa meditazione sceglierei di prendere appunto quel Vangelo che è stato letto domenica scorsa nel rito romano della Trasfigurazione con il Vangelo di San Marco, il Vangelo di San Marco, che poi cerchiamo noi di meditare secondo alcune prospettive che possono servire al nostro cammino, alla nostra vita cristiana, al nostro rapporto con Gesù, al nostro rapporto di discepoli di Gesù. San Marco racconta: 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Allora, noi sappiamo che questa scena del Vangelo, che è anche un mistero luminoso del rosario, per Giovanni Paolo II era come una specie di, era il mistero che poteva illuminare anche gli altri, perché è quello più vicino così a una visione contemplativa della vita di Gesù, no? In effetti Pietro, Giacomo e Giovanni lo vedono come non l'avevano mai visto. Allo stesso tempo lo vedono, diciamo, cioè è sempre lui, è sempre Gesù che loro conoscono, no? Però ha una luminosità che non ha mai avuto, anche nel vestito. Queste vesti divennero splendenti, bianchissime. E poi vedono queste apparizioni, Elia e Mosè, che conversano con Gesù. E tanto che Pietro dice quelle cose famosissime, no? È bello per noi stare qui, facciamo 3 capanne. Poi il Vangelo di Marco dice che Pietro non sapeva cosa stava dicendo, no? Non sapeva cosa dire, erano spaventati. Certo, è uno spavento un po' singolare perché dice: è bello per me stare qui, no? Cioè erano, possiamo dire, scioccati, erano sconvolti da questa visione così soprannaturale, no? Così di cielo. E da questo spaccato della vita eterna. Poi un altro evangelista dice che Mosè e Elia parlano con Gesù di quello che sarebbe successo a Gerusalemme, no? Però, quindi stanno parlando della passione di Gesù. Però d'altra parte, se vi capiterà un giorno di leggere quello che Benedetto XVI nel libro Gesù di Nazareth scrive di questo episodio, gli esegeti trovano un sacco di motivi validi e importanti per questa frase di Pietro: facciamo 3 capanne, no? Per esempio, c'è tutta una spiegazione che è legata alla festa delle capanne. E pare che appunto, cioè quindi un'ipotesi è che Pietro invece si sia accorto che questa apparizione di Mosè e di Elia significa che il tempo messianico è giunto e quindi c'è una profezia che faceva riferimento a queste capanne. Quindi però magari lui sa che cosa dice, no? Però cos'è che veramente non che gli fa dire dopo, quando lui, perché Pietro, sapete che Pietro raccontava queste cose, poi San Marco le scriveva, no? Così dice la tradizione, cioè che San Marco è il suo scrivano, no? Che lui ascoltava le prediche di Pietro, i suoi racconti, e poi li ha messi per iscritto perché questo Vangelo potesse arrivare prevalentemente a persone forse della Chiesa di Roma. Comunque, infatti, devono spiegare quando c'è qualcosa che si riferisce al popolo ebraico, deve spiegarlo di più rispetto al Vangelo di Matteo, per esempio, che si rivolge a gente che conosce quella cultura di riferimento, no? Allora, Pietro, che cosa vuol dire? Vuol dire che, appunto, che non era nel progetto di Gesù che ci si potesse fermare lì, no? Che quel Monte Tabor dovesse diventare il luogo della loro dimora, no? Il luogo del loro stabilirsi, no? Stiamo qua, tranquilli, si sta così bene. L'ombra, no, la nube è sempre che li copre, è segno della presenza di Dio, no? nella Bibbia. E poi infatti arriva la voce del Padre: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Poi improvvisamente non vedrò più nessuno se non Gesù solo con loro, no? E io penso che noi qualche volta ci sarà capitato, appunto, di invidiare un po' queste persone che hanno conosciuto Gesù da vicino, che hanno potuto stare con Lui, pranzare con Lui, camminare con Lui, parlare con Lui, conoscere la sua voce, conoscere i suoi occhi, e insomma, toccare la sua umanità, no? Infatti San Giovanni dice proprio: colui che noi abbiamo toccato, abbiamo stretto, e noi vi annunciamo proprio Lui. D'altra parte, per loro, normalmente Gesù, al di là di quando faceva miracoli, era uno come loro, possiamo dire così, no? E in effetti avevano bisogno anche loro della fede per credere nella sua divinità. In questo momento, nella trasfigurazione, il Signore li aiuta a vedere la sua divinità, oppure a ascoltare la voce del Padre. Però subito dopo scompare quella luce, scompare quella bianchezza, scompare quella voce, scompare quella nube, scompare Mosè ed Elia. Cioè loro hanno visto per qualche istante una realtà che, possiamo dire, c'è sempre, però loro non la vedono, così come noi non la vediamo. Forse questo episodio ci aiuta a pensare che quando, e certo, a noi manca anche l'umanità di Cristo vista con i nostri occhi, ascoltata con le nostre orecchie e stretta con le nostre mani, no? Infatti, quando adoriamo l'Eucaristia con le parole di San Tommaso, diciamo: ecco, in te i nostri sensi si sbagliano, no? Cioè noi visus tactus gustus in te fallitur, no? Cioè noi, ma crediamo comunque quello che tu hai detto, e crediamo che tu sei qui presente nell'Eucaristia, e quindi ti vediamo con gli occhi della fede, però. Allora, forse questo episodio ci aiuta, perché questi nostri fratelli, Pietro, Giacomo e Giovanni, vedevano l'umanità di Cristo, ma per credere alla sua divinità dovevano fare un passo in più, e il Tabor li aiuta, no? Li aiuta, però poi scompare subito. Questo ci può far capire come agisce il Signore con noi, come agisce Dio con noi, cioè che qualche volta si ci apre uno squarcio della sua presenza per poi dopo però richiuderlo subito. E quindi a volte noi ci possiamo, diciamo, dispiacere di questo, ci possiamo anche un po' scandalizzare di questo, e possiamo anche protestare con il Signore perché non ti vediamo, non ti riusciamo ad ascoltare nella nostra orazione, oppure facciamo fatica, appunto, a sentirti vicino. Però un po' i nostri fratelli, i primi, ci possono aiutare. Loro erano consapevoli poi quando scrivevano le loro lettere, quando facevano le loro predicazioni, che dovevano darci testimonianza di Gesù, perché noi avremmo potuto credere sulla base della loro testimonianza. Questo San Giovanni lo dice nel suo Vangelo, no? Nel suo Vangelo dice: queste cose le ho scritte perché chi le legge possa credere sulla base della mia testimonianza, il Vangelo di San Giovanni. Beati coloro che crederanno senza aver visto, dice proprio Giovanni nel suo Vangelo, cioè fa dire a Gesù, lo ascoltiamo dalle parole di Gesù, coloro che crederanno senza aver visto. E quindi noi possiamo essere aiutati da questi nostri fratelli nella fede e anche da questo episodio che Gesù ha voluto vivere con loro e ha voluto che fosse scritto nei Vangeli, perché serve anche a noi la trasfigurazione e serve anche a noi pensare che loro avevano voglia di rimanere lì. Quando a noi capita di avere un momento bello di preghiera, un momento bello di luce nella fede, un momento bello anche nella vita di famiglia, no? E allora pensiamo, speriamo che questo istante si prolunghi, oppure magari questo istante fosse eterno, no? Questo è un desiderio umano profondo che anche ci fa capire che noi siamo fatti per una felicità che non finisce mai, no? Una felicità eterna, una felicità completa, infinita. Quindi questo ci può aiutare a comprenderci in questo desiderio che anche quando viene un po' frustrato, no? E perché quell'istante invece finisce, perché magari subito dopo c'è una difficoltà nella vita. In qualche modo Gesù fa capire a questi suoi figli, a questi suoi discepoli, fratelli, che poi invece il cammino della salvezza, il cammino della loro vita, il cammino anche della redenzione avrà un percorso diverso da quello che loro speravano. Cioè Pietro diceva: rimaniamo qua, è già tutto perfetto, è già tutto sistemato, no? C'è tutto, c'è Mosè, c'è Elia, quindi c'è la legge, no? Che Mosè ha dato, ci sono i profeti che sono manifestati da Elia, e poi c'è Gesù che è il Messia, basta, ci siamo, no? Finito. Rimaniamo qua, piantiamo tre tende. E invece Gesù gli dice, gli fa capire che il percorso è un po' diverso. Tu, Gesù, hai sicuramente voluto che loro vedessero questa cosa bella perché poi potessero essere forti, così dice tutta la tradizione, no? Perché quando ti vedono sudare sangue nell'orto degli ulivi, quando ti vedranno sulla croce, quindi, come dire, tu li hai aiutati a vedere che poi tu sei lo stesso che si è trasfigurato e che quello stesso che poi nell'orto degli ulivi suda sangue, e possono quindi avere un po' la speranza della resurrezione, no? Comunque possono resistere. Allora tu a volte nella vita cristiana ci doni dei momenti di Tabor, no? di Monte Tabor, no? delle gocce, e di Tabor. E poi dopo però ci aiuti a comprendere che dobbiamo scendere in pianura, cioè questi momenti di monte, no? Sono molto belli, sono utili. Qualche volta è proprio utile, così come è utile alle persone, così cambiare aria, fare una bella gita, e a volte ci può far capitare di fare proprio la nostra preghiera, l'orazione in cima a un monte, vedere paesaggi bellissimi che ci possono aiutare, però poi il lavoro, la vita ordinaria ci porta alla vita, appunto, a scendere in pianura, diciamolo così, non è che tutti devono scendere in pianura, ma i montanari rimangono sulla montagna, però poi fanno la loro vita ordinaria, no? Tornano nel bosco a fare i boscaioli, anche se hanno avuto un momento di festa, una domenica particolarmente bella. E allora in effetti scendono dal monte, no? Mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti, no? Pensate, loro non riuscivano a capire, no? Però hanno obbedito a Gesù e l'hanno tenuta per loro e non hanno raccontato quella cosa lì. Fra l'altro questo ci può far capire che esistono delle cose che il Signore ci fa capire, che noi comprendiamo e che è anche giusto che rimangano in un ambito di riservatezza, di discrezione, e anche se poi altre volte invece al momento opportuno il Signore ci chiede di rivelare ad altri le cose belle che ci ha fatto scoprire, le cose belle che ci ha fatto capire. E in effetti loro scendendo dal monte gli chiedono qualcosa, non lo interrogano. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro, sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. E in un altro Vangelo si dice che si riferiva a Giovanni Battista. Per cui vedete che dopo aver visto questa cosa così bella, aver detto dai rimaniamo qua, è così bello, poi scendendo giù Gesù cerca di aiutarli a capire che ci sarà qualcosa di più complicato, no? Tutte e due le cose fanno parte della nostra vita, no? Cioè sia il Tabor che il Calvario, sia il Calvario che la Domenica di Resurrezione, no? Quindi noi siamo nel giusto quando mettiamo insieme queste due cose, no? Se noi pensassimo che è solo Domenica di Resurrezione, solo Pasqua, oppure solo Monte Tabor, solo lucentezza delle vesti, bellezza di stare con Gesù, noi cioè, è come negheremo una cosa che invece Gesù ci ha svelato, che bisogna passare dalla croce, no? Se vedessimo solo croce, solo difficoltà, solo Calvario, neanche saremmo nel giusto, perché dimenticheremmo che c'è la dimensione divina così bella che poi attraverso la croce arriva la resurrezione, no? Come qualche volta possiamo dirci e spiegare che la Quaresima dura 40 giorni, invece il tempo di Pasqua dura ben 50 giorni, no? Quindi è più importante, no? È più importante la resurrezione, la conclusione finale, la vittoria finale. E quindi, come dice il Papa Francesco, dobbiamo evitare di avere la faccia da Quaresima, no? Come cristiani, quindi dobbiamo vivere la gioia e avere il volto da risorti, no? Come Nietzsche, il famoso filosofo Nietzsche, sperava, no? di incontrare i cristiani con il volto da risorti. Allora assicurava che insomma gli avrebbe creduto, no? Avrebbe seguito la loro strada. In questo sì, il mondo è un po' in attesa della testimonianza, no? Dei figli di Dio, come la creazione che geme e attende la rivelazione dei figli di Dio, così anche il mondo. E in effetti dopodiché quando arrivano giù nella pianura, come si voleva dimostrare, trovano un problema. Arrivando presso i discepoli videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro, no? Cioè, quindi quella pace del Tabor, quella serenità del Tabor, non solo lungo il percorso Gesù gli spiega che ci sarà anche appunto la passione e la morte, ma e che è anche successo già con Giovanni il Battista, che lo ha preceduto in questa via, ma poi arrivano lì e c'è qualche altro problema, no? Subito tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Egli interrogò, di cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose, maestro, portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto, dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti, si rigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro, o generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi, portatelo da me. Per cui anche questo, che questo problema che tu Gesù trovi quando scendi giù, e in qualche modo ci consola vedere che anche tu, insomma, un po' ti spazientisci, potremmo dirlo così in termini umani, no? E, fino a quando dovrò sopportarvi, no? Cioè, ti soffri per la nostra mancanza di fede, vedi anche i discepoli che non riescono a scacciare questo demonio, non, questo spirito muto, no? E allora è come se Gesù pensasse, ecco, i discepoli non sono ancora in grado di fare questo, devo fare io, no? E in effetti fa così. Glielo portarono alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre, da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose, dall'infanzia. Vedete che Gesù dopo è nella sua umanità ricchissima, ha anche una reazione simile a quella che potremmo avere noi, no? Però poi subito entra in dialogo personale con questo padre e si interessa di questo figlio. E che Gesù in te vince la compassione, la misericordia, il desiderio di salvare la pecorella, di trovare, di salvare la pecorella smarrita, di salvare tutti, no? E noi ti chiediamo di essere in grado di prendere su di noi quella difficoltà quando magari veniamo appunto da una cosa bella, da un momento di preghiera bello, da un momento spirituale intenso, però poi dopo e lì in qualche modo sogniamo che tutto sia risolto, che tutto sia che sia come il paradiso terrestre che abbiamo perduto o quello futuro che ancora non c'è, e allora il contrasto di qualcosa che non funziona ci può mettere in difficoltà. Questa esperienza di Gesù ci conforta, ci conforta, quindi dice, beh, Gesù, dai, anche noi, se tu ci aiuti, no? Il papà risponde, dall'infanzia, anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Certo, questo poveretto aveva, sia lui che suo figlio, avevano proprio un bisogno pazzesco di Gesù, non hanno trovato aiuto da nessuna parte, no? E Gesù gli dice, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. E il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce, credo, aiuta la mia incredulità. Quindi il papà crede, ma si rende conto che è mescolata questa fede con l'incredulità. E allora Gesù, vedendo correre la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli, spirito muto e sordo, ti ordino, esci da lui, non vi rientrai più. Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano, è morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. E entrando in casa i suoi discepoli gli domandavano in privato, perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro, questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Io mi soffermo, poi concludiamo la nostra orazione, innanzitutto sul fatto che Gesù lo prende per mano, come fa spesso con persone che a cui deve ridare la vita, no? O deve ridare la salute. E così anche noi ci sentiamo presi per mano da Gesù in qualunque circostanza, anche quando siamo così, ci sentiamo così scossi da sembrare mezzi morti. Gesù ci prende per mano, ci tira su e ci dà sicurezza, ci dà fiducia. E poi questo segreto che Gesù sveglia ai tuoi discepoli, che questo tipo di nemici della nostra vita cristiana si possono vincere con la preghiera. Quindi, vedete, la preghiera del Tabor è una preghiera così bella, serena, che uno riceve, quasi non deve sforzarsi perché la riceve già, no? Vede Gesù con le vesti bianche splendenti e poi ascolta il Padre che dice: questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo. Quindi non deve sforzarsi per fare la sua visione contemplativa, la sua preghiera sul Tabor. E invece, scendendo in pianura, a volte questa preghiera con la quale aiutare le persone è una preghiera che deve nascere dall'impegno, dallo sforzo, e noi anche questa chiediamo al Signore di riuscire a fare, anche collegandoci tra di noi, essendo due o tre che pregano, perché tu, Signore, ci hai promesso che allora in quel caso ci ascolti più facilmente. Ecco, allora questa alternanza di Tabor e di pianura, no? Di Tabor e di Calvario, se volete, quando rileggerete quella meditazione di San José María che si intitola Verso la Santità, potete scoprire che lui un po' racconta la sua vita spirituale e si vedono cose belle, bellissime, e poi momenti di prova, cose bellissime e momenti di prova. E sublimi orazioni e vita contemplativa, e allo stesso tempo poi notti oscure. Così penso che sia stata la sua vita, così è la vita dei santi, così è la vita dei cristiani, e ci sarà un motivo perché è così, e Gesù stesso l'ha vissuta lui per primo e ci diciamo, in qualche modo ci dice che così sarà anche la nostra, no? E allora gli chiediamo a lui di aiutarci, gli chiediamo alla Madonna, che anche lei ha vissuto questa peregrinazione della fede lungo la sua vita e ha vissuto momenti di luce e momenti di oscurità, che la Madonna ci aiuti a non perdere mai la speranza, la serenità, la gioia nei momenti della prova, che ci ricordiamo sempre del Tabor quando siamo scesi in pianura e ci sono le difficoltà, o quando per caso, ecco, no, e capiterà, il Signore ci porta sul Calvario, che ci ricordiamo che poi dietro alla croce ci sarà sempre la resurrezione.